Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sale in pedana lo statunitense Paul M. Fa un esercizio che non impressiona, ma il punteggio è alto ed è primo. Ricominciano i fischi e niente sembra riportare la calma. Proprio adesso che tocca a Igor Cassina. Ciao, sono Francesco Di Paola, vivo a Torino, ho 53 anni, una moglie, un figlio e per mestiere faccio pantofole. Pronto, scusa un secondo, Fosbury alla terza prova ha saltato 2.24. Adesso attendiamo Carates a questa prova. Medaglia d'oro a Fosbury, l'americano, con 2.24 di fronte al connazionale Carates. Non fatevi prendere dai primi dettagli. Non è che perché si parla di salto in alto o di sbarra olimpica, oggi si parla solo di sport. Oggi si parla anche di quello, ma come sempre si parla anche d'altro. Oggi parliamo di innovazione. Vi è mai capitato di inventare qualche cosa a casa, sul posto di lavoro, tra i vostri amici, che abbia proprio innovato, ci fosse una breaking news, ero già pronto, fermo a far parlare loro. Torniamo qua. Avete mai inventato una cosa che abbia migliorato il vostro stile di vita, lo stile di vita della vostra famiglia, del vostro lavoro, quindi dei vostri colleghi? Che so, se avete trovato un modo per parlare con vostro figlio adolescente e i vostri amici coetanei lo hanno mutuato, o se avete trovato il modo per anche solo aprire una scatoletta di tonno senza tagliarvi. 349-238-6666. Abbiamo aperto con l'innovazione delle innovazioni, quella che non solo è stata un'innovazione ma ha cambiato uno sport, che è il salto di Fosbury, che salta di schiena invece che frontale. Come si saltava prima di Fosbury? Lateralmente, invece di pancia sostanzialmente, invece lui salta di schiena. Ma c'è, la storia dello sport in particolar modo è segnata dalle innovazioni, dal gancio cielo di Karim Abdul-Jabbar, che è una roba che nessuno faceva prima, alla trivela di Quaresma, per dirne una che rimane proprio in mente, no? Jimi Hendrix che suona coi denti, anche se poi non è che tutti si sono messi a suonare coi denti, però era una roba nuova. Oppure abbiamo scoperto prima con Tiziano che il rigore a cucchiaio, quello famosissimo di Totti in Olanda, contro l'Olanda, però l'ha rifatto mi pare Totti più di una volta anche in campionato, ma anche quello di Pirlo nelle semifinali nei quarti di finale contro l'Inghilterra mi pare dello scorso europeo, sono nati da un tizio, che c'è stato uno che l'ha fatto per primo. Quel tizio si chiama Antonin Panenka ed è un calciatore cieco che durante la finale degli europei del 76 calciò un rigore in quel modo lì a cucchiaio. 349-238-6666. Si parla di innovazione, la vostra piccola o grande innovazione. Oggi vi dicevo parleremo di questo, parleremo però anche di sport e parleremo soprattutto di Igor Cassina e del suo movimento. Fa caldo ad Atene. È il 23 di agosto del 2004, nono giorno di Olimpiadi. Io sono qui, insieme a mia moglie e a mio figlio, per coronare un sogno che mi porto dietro dal 72, quando all'età di 12 anni vidi per la prima volta i giochi olimpici in TV. Da allora il mito olimpico mi ha sempre affascinato. Ed era grande il desiderio di poter un giorno assistere a una competizione dal vivo. L'OACA, il centro sportivo che raggruppa gli impianti principali, ha un ingresso che sembra un enorme scheletro di animale calcinato dal sole. Enormi costole d'acciaio bianco che disegnano una serie di archi trionfali, progettate da Calatrava, che si riflettono in vasche d'acqua rivestite di maiolica, anch'essa bianca, e che ricordano molto le opere di Gaudí al Parc Güell. È strano, questo pezzo di Barcellona trapiantato in Attica, ma il risultato è piacevole. C'era un'atmosfera molto rilassata, a parte che il tempo era bellissimo, poi la città era piena di turisti e di atleti, quindi è veramente una situazione molto, molto bella, molto piacevole, molto gradevole. Ovviamente non si respirava l'aria pesante che si respira adesso da Atene, anzi assolutamente, tutto era ordinato, tutto era perfetto, funzionale, bello, pulito, era veramente una gran bella situazione. Siamo già stati qui la sera precedente per vedere un irriducibile e meraviglioso Yuri Keki vincere un bronzo strepitoso a 34 anni e dopo 5 anni di assenza dalle gare. Stasera però è diverso. Stasera c'è Igor Cassina. Cassina è come il calabrone. Del calabrone il mito dice che non potrebbe volare, che sfida le leggi della fisica, eppure vola. Ecco, lo stesso vale per Igor. È alto 1,80 m, almeno 20 cm più degli altri ginnasti. Al baricentro alto, eppure vola. La sua gara sarà l'ultima della serata. Prima altre due finali maschili e due femminili. Entriamo nel palasport che con dubbio gusto è stato disegnato in modo da assomigliare al Partenone. Raggiungiamo i nostri posti e accanto a noi si siede una famiglia, padre, madre e figlia. Si capisce dall'aspetto che sono nord-europei. «Where are you from?» chiedo all'uomo seduto accanto a me. «Sono inglese», mi risponde. Con l'inglese me la cavo discretamente, ma sono sempre in soggezione con le persone di madrelingua. Fortunatamente David parla come uno speaker della BBC e capisco tutto. Gli chiedo se è un appassionato di ginnastica artistica. Lui mi risponde di no, che è in vacanza con la famiglia e ha deciso di vedere qualche gara. E questo sport gli sembra un bello spettacolo. Io gli racconto perché sono lì e durante le gare cerco di spiegargli le astruse regole di questo sport bellissimo, dove a volte conta di più tenere le punte dei piedi tese che non uno spettacolare doppio salto. Assistiamo a quattro meravigliose finali e finalmente si fa l'ora della gara alla sbarra. Il primo a salire è il giapponese. Ottimo esercizio. Dopo un americano è il turno del russo, Nemov. Lui è l'osso più duro. Campione olimpico in carica. Nemov parte con una serie di salti impressionanti e spettacolari, però non è perfetto nell'uscita. La giuria gli dà un punteggio che lo relega in terza posizione e il pubblico non è d'accordo. Cominciano i fischi e le urla di disapprovazione. La gara è sospesa. Frenetiche consultazioni tra i giudici e revisione del punteggio, ma la posizione non cambia. Sotto un diluvio di fischi sale in pedana lo statunitense Paul Hamm. Fa un esercizio che sinceramente non impressiona molto, ma il punteggio è alto, 9,812, ed è primo. Ricominciano i fischi e niente sembra riportare la calma, proprio adesso che tocca Cassina. It's a beautiful day today. Woke up this morning with sunshine on my face. And since the storm clouds have lifted, I keep drifting back to you, yeah. My friend, my lover to the end, it'll be okay. Questo è uno sport che richiede la massima concentrazione. Quindi i malumori del pubblico, le urla, i fischi non sono il sottofondo ideale. Igor però non li sente, è una lama di ghiaccio. Sale alla sbarra e dopo un paio di gran volte di petto per prendere slancio, dà inizio al suo movimento. Il movimento Cassina, appunto. È un salto teso con avvitamento a 360 gradi sull'asse longitudinale. È stato il primo e finora l'unico ad eseguirlo. Quando le mani si staccano dalla sbarra e incomincia a volare, il cuore mi si ferma. Sono istanti, ma durano un'eternità. Il corpo rotea nell'aria. Sembra dover andare via spinto dalla forza centrifuga e invece ritorna esattamente al punto di partenza e le mani sono due morse da fabbro che riagguantano la sbarra per consentire al corpo di continuare le sue rotazioni. Non è finita però. Il movimento Cassina deve essere eseguito due volte. Ormai però non è più possibile sbagliare. Gli dèi dell'Olimpo sono con lui e anche il secondo salto si conclude positivamente. È fatta. Niente e nessuno possono togliergli l'oro. L'attesa per il punteggio aumenta la suspense, ma non ci sono dubbi. È suo l'esercizio migliore. È veramente molto spettacolare. L'occhio fa fatica a percepirlo, però capisce che è sicuramente qualcosa quasi fuori dalle possibilità umane. E poi il movimento non si esaurisce lì, nel senso che una volta eseguito poi bisogna continuare l'esercizio. La continuità del movimento a dare l'eleganza e a far capire la difficoltà dell'esercizio stesso. Eccolo il suo movimento, Cassina. Perfettamente impugnato il Cassina, doppio teso. Ancora, bravo Igor, bravissimo Igor. Cassina sta aspettando con trepidazione e noi con lui il punteggio. Cassina 9812 è al comando della classifica. 9812. Io fino a questo punto sono stato seduto sul mio scomodo seggiolino in silenzio. e sono teso come una corda di violino, ma quando sul tabellone spunta il numero 1, allora esplodo. Abbraccio David, al quale sono riuscito a trasmettere un po' dell'adrenalina e dell'entusiasmo che ho in corpo. Saltiamo ed esultiamo insieme come vecchi amici. Sventola anche lui il tricolore. Sua moglie e sua figlia ridono vedendo David trasformato in un esagitato tifoso di uno sport che fino ad allora gli era quasi sconosciuto. Prometto che gli pagherò da bere fino a farlo ubriacare per festeggiare la vittoria. E lui ridendo mi ringrazia e mi avverte però che dovrò prepararmi a spendere molto. Non è un problema, saranno soldi ben spesi, gli ripeto. Al momento della premiazione decidiamo di avvicinarci all'arena, che nel frattempo si è un po' svuotata, per scattare qualche foto. Dico a David di aspettarmi all'uscita, lui annuisce, ma poi, purtroppo, nella calca degli spettatori ci perdiamo di vista e non riusciamo a ritrovarci. Peccato, mi sarebbe proprio piaciuto festeggiare questa grande emozione insieme a lui e alla sua famiglia. Magari, chissà, sarebbe potuta nascere anche una bella amicizia. Ma la calda e serena notte di Atene mi ha regalato una gioia che non dimenticherò facilmente. Mi capita ogni tanto di andare su YouTube e rivedere la gara e mi sembra di essere di nuovo lì. Mi torna la pelle d'oca, l'ugola mi fa quasi male, come dopo aver cantato l'inno di Mameli a squarciagola. Ciao Matteo, mi scrive Steo da Biella. Io ho trovato questa innovazione. Ho abbinato la rotazione di un trapano ad una levigatrice a nastro per fare la punta a delle bacchette da 1,5 mm. Mi sono perso alla seconda cosa che hai detto, però mi sembra di capire. Trapano gira, levigatrice a nastro è una roba che leviga, da cui levigatrice. Le bacchette non ho capito bene a cosa si riferiscono, però mi sembra di capire che è una specie di enorme temperino, giusto? Tutti i colleghi sono rimasti a bocca aperta. 349-238-6666, qualunque sia stata la vostra innovazione, esattamente come l'esempio di Steo, potete raccontarcela oggi. Lui non l'ha fatta, ma ne è stato testimone. Era là, era ad Atene, ha visto la medaglia d'oro e soprattutto ha visto il movimento Cassina. Pronto Francesco? Ciao! Come stai? Bene, bene, grazie. Non capita spesso di ricevere dei racconti in cui il protagonista in realtà è testimone, cioè tu semplicemente hai raccontato un episodio della tua vita, che per te evidentemente ha significato molto, anche da un punto di vista semplicemente emotivo, in cui però racconti di fatto un avvenimento sportivo di portata enorme, perché parliamo delle Olimpiadi. La domanda sostanziale è, Francesco, tu eri un atleta prima o semplicemente c'hai questa passione assoluta? No, solo una passione. Io sono un podista, ma di quelli light, non di quelli, sai, che seguono il podista bene. Light quanto corre rispetto al podista hard? Di solito una volta a settimana e poi fa una garetta la domenica. Ok. Il podista vero invece c'ha le tabelle, i programmi, gli impegni. Il podista vero è quello che anche se piove o nevica non esatto, ce n'è. Il podista esatto, light invece magari stasera mangia una pizza. Esatto. Sì, la pizza e la birra vengono prima. Che cosa fai nella vita, Francesco? Allora, io faccio pantofole, adesso io la faccio semplice, ma non sono né un ciabattino né un artigiano. Insieme ad altre quattro socie abbiamo un'azienda che disegna campionari di pantofole principalmente, facciamo anche altre cose. Quindi vi siete specializzati in pantofole? Sì. Che cosa deve avere? Che cosa deve avere una pantofola per essere una bella pantofola? Guarda, perché si venda deve avere due cose, deve essere d'impatto, quindi che colpisca il consumatore, perché è un acquisto che di solito viene fatto d'impulso e che costi poco, perché sono comunque dei prodotti che così hanno un utilizzo molto banale, per cui il prezzo è una componente e hanno anche e hanno anche una durata abbastanza ridotta. Quanto dura una pantofola oggi? Qualche mese. Ah, proprio neanche una stagione praticamente. No, ecco, diciamo che devi farci la stagione. Sì, questa, che innovazione c'è stata nel mondo delle pantofole? Cioè, cos'è che ha cambiato radicalmente il mondo delle pantofole? Cioè, che so, è tipo il pollice opponibile, le pantofole hanno tolto... Beh, le pantofole hanno tolto la parte dietro del tallone e sono diventate pantofole da scarpe, giusto? In quel caso lì si chiamano ciabatte, quando sono dietro, quando sono aperte dietro. Ah, voi fate proprio le pantofole, certo, perdonami. Facciamo anche le ciabatte. Fate tutto, fate sì, le babbucce, insomma. Facciamo le babbucce, ecco, noi siamo il nostro cavallo di battaglia, sono quelle ciabatte, quelle pantofole a forma di animale. No, volevo proprio chiederti se fate quelle robe orribili e tu mi hai subito fugato il dubbio, ma tipo quelle a forma di cane. Ne stiamo preparando di altre molto più orribili. Tipo, fammi un esempio, che sai? Non te lo posso dire perché è un segreto industriale. Ah, perché ci sarà un lancio sconvolgente della pantofola in ottobre in avanti lanceremo queste pantofole mostruose. Ma mostruose nel senso che sono brutte o che hanno una forma? Ah, non me lo puoi dire, segreto industriale. Ti mando una foto. Mi dici quanto costa una pantofola normale? Guarda, quelle che facciamo noi, appunto queste con le forme di animali, vanno intorno ai 15 euro al pubblico. Ok, e quanto costo di produzione, se si può dire più o meno? Costano, diciamo, un terzo del valore. No, dai, di meno. Dai, un quarto, io. Ma sai, poi è anche difficile calcolare. Certo, cioè, come fai a dire quanto costa veramente una pantofola? Cioè, non lo puoi dire. Nel senso che oggi ci sono un sacco di costi accessori, tipo per esempio c'è grossissimi costi per il controllo della qualità e della sicurezza del prodotto. Certo. Veramente oggi si spendono tanti soldi per testare, giustamente, per far sì che il prodotto non abbia sostanze dannose per Francesco, scusami, siamo passati veramente dal movimento Cassina alle pantofole, ma ero troppo affascinato. E poi comunque parleremo, dopo la borsa avremo Igor Cassina ovviamente in diretta, quindi ne parleremo con lui e quindi rimani. Francesco, però questa è una cosa che chiedo a tutti più o meno gli imprenditori. Sì. Si è sentita flessione nel mondo delle pantofole oppure? Sì, molto. Noi fortunatamente abbiamo diversi clienti all'estero. In Francia. È così che si salvano tutti gli imprenditori sostanzialmente. Niente pubblico e tutto estero. Purtroppo sì. Niente pubblico. Diciamo, non fornite delle pantofole ai comuni e questo vi salva. No, abbiamo dei clienti all'estero, adesso anche a Dubai. Anche a Dubai, ma perché a Dubai si usano le pantofole, ma ci sono 30 gradi anche di notte. Guarda, è incredibile, ma noi le vendiamo le dita di Dubai che poi le distribuisce in tutto il Medio Oriente e sì, vendiamo, considera che nelle case viaggiano con l'aria condizionata a 15 gradi. Ah certo, è vero, fa un freddo cane. E l'ultima cosa, poi ti saluto davvero perché sono già in ritardo, come si finisce a lavorare nel mondo delle pantofole? Avendo un papà che faceva il rappresentante Benissimo. Di una ditta di pantofole, venuto a Torino per stare 2 settimane e ci sono rimasto 32 anni. Mi sembra semplicissimo. Francesco, grazie per la chiacchierata. Ripeto, parleremo di quella sera e del Movimento Cassina direttamente con Igor più tardi. Grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Voi siete qui. Si vede abbastanza poco del viso di Francesco nella foto che ci ha mandato, perché è una foto molto molto stretta da cui si vede giusto la striscia orecchia, occhi, orecchia. Ha due dita appoggiate sotto sulla guancia come se stesse ascoltando, osservando qualcuno. E anche se non si vede la bocca, si vede che sta sorridendo molto. Innovazione. Sostantivo femminile. Introduzione di sistemi e criteri nuovi. Singolo fatto imposto nell'ambito di un rinnovamento radicale di una prassi. In linguistica, uno degli elementi dello svolgimento di una lingua in incessante alternanza col principio opposto della conservazione. Etimo, dal latino tardo, innovatio, innovationis, derivato di innovare, data secolo XV. Ho deciso di ritirarmi perché mi sento pienamente soddisfatto e appagato da tutto quello che ho avuto nel corso della mia carriera. Ho realizzato tutti i miei sogni e non potevo chiedere di più da quello che mi ha dato questo sport. La vittoria dell'oro olimpico ad Atene è il massimo obiettivo per un atleta. Averla vinta in quella città, simbolo dei valori olimpici, mi ha riempito di gioia. Queste erano le parole con cui, un paio d'anni fa, Igor Cassina ha salutato il mondo dello sport dopo aver vinto appunto quella medaglia facendo quella cosa lì, che è un movimento che ha preso il suo nome perché di fatto l'ha inventato lui. Pronto Igor, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, come stai? Mi permetto di darti del tu perché più o meno quanti anni hai? 35, quindi vabbè, abbiamo quasi la stessa età. Come stai Igor? Bene, bene, sono in palestra che da poco, come sapete, insegno alla Pro Karate Brianza, quindi sono con i ragazzini e sto cercando di trasmettere loro quello che ho appreso io da piccolo. Bravo, volevo proprio capire che cosa fa un atleta olimpionico quando molla lo sport, continua appunto, tu alleni adesso di fatto. Sì, allora nel mio caso sono stato a New York subito pochi mesi dopo che ho lasciato l'attività, ho insegnato in una scuola italo-americana educazione fisica e ho avuto anche il piacere di insegnare ginnastica artistica appoggiata ad una società abbastanza quotata lì a New York. Uh-huh. E da pochi mesi ho iniziato la nuova veste di allenatore proprio per la società Pro Karate Brianza e abbiamo anche il supporto di Matteo Morandi che ha gareggiato con noi nel nostro campionato di Serie A, siamo arrivati secondi e c'è un gruppo di bambini che si sta formando, quindi sto cercando di formarli nel migliore dei modi, umilmente parlando, in base a quelle che sono le mie competenze. Senti Igor, hai sentito la storia di Francesco? Il nostro programma funziona così, no? Che chiediamo delle storie agli ascoltatori, delle storie che raccontino qualcosa di loro, e Francesco ha scelto un pezzo della sua vita in cui era seduto su quegli spalti a guardare te che vincevi la medaglia d'oro e la vincevi in quel modo lì. La prima cosa che viene da chiederti è: come ci si inventa un movimento nella ginnastica alla sbarra? Cioè, come ti viene di decidi che aspetta, forse posso fare una roba nuova? Ma guarda, allora diciamo che oggigiorno è veramente difficile, diciamo, portare innovazione in questo sport, perché tanti sono i movimenti esistenti e le difficoltà che ci vanno dietro sono innumerevoli. Mm. Diciamo che nel mio caso da piccolino mi veniva tra virgolette facile fare un doppio indietro con le gambe raccolte. Insieme all'allenatore, visto la relativa facilità, abbiamo pensato di fare questo doppio con le gambe tese, quindi il corpo completamente teso, e aggiungere anche un avvitamento di 360 gradi sull'asse longitudinale. Quindi questa innovazione ha fatto sì che la federazione internazionale riconoscesse appunto l'originalità. E quindi le adesso il tuo nome? Perché chi è che dà il nome? Sei tu che vai dal notaio o è la federazione? Come funziona? No, diciamo che la pratica non è così. Diciamo che la federazione italiana compila un modulo particolare, si fa presente, si fa questa richiesta e a quel punto viene riconosciuto, cioè come un astronomo che scopre una stella e quella stella ha il suo nome, come uno chef che inventa un piatto. Sì, l'unica differenza è che devi proporlo in una gara di valore internazionale, almeno campionato europeo, mondiale o olimpiade, quindi tu lo presenti, se riesci ad eseguirlo nel migliore dei modi in gara ti viene attribuito il nome, se invece lo sbagli no, devi aspettare un'altra occasione. Qualcun altro lo sta rifacendo, lo propone in gara? Sì, guarda, io ti posso dire che è motivo di vanto per me, di orgoglio personale, perché due atleti proprio all'ultima edizione dei Giochi Olimpici di Londra hanno conseguito la medaglia d'oro. Uchimura nel concorso individuale e l'ha eseguito alla sbarra, ovviamente, sì. E l'olandese Zonderland che ha vinto la medaglia d'oro eseguendo proprio il mio movimento, quindi mi fa piacere questo. Quindi, scusami, i giudici danno dei voti anche a quel movimento lì, al tuo movimento, in base a come uno l'ha eseguito, giusto? Sì, giusto. Beh, ma è una figata, cioè praticamente tu sei eterno, nel senso che ci sarà sempre il tuo movimento, sempre. Sì, è una cosa, un avvenimento diciamo storico, epocale, perché è un qualcosa che rimarrà per sempre, quindi quando un atleta lo propone viene chiamato proprio Movimento Cassina, quindi è una soddisfazione. E tu quando lo vedi fare in televisione, cioè chi meglio di te può guardare e dire no, scusa, guarda sti piedi, guarda come li ha mossi. Ma guarda, ti posso dire che alle ultime Olimpiadi ero proprio con Andrea Fusco, grande commentatore Rai, sì. E quando abbiamo assistito alle prove di atleti che lo presentavano mi faceva un pochino strano dire ha eseguito il movimento Cassina. Eh beh, immagino, è certo. Però ripeto, è come se fosse una cover, cioè un cantante che canta la canzone di un altro. Sì. Vabbè, diciamo, sto facendo esempi a cavolo ovviamente, Igor, però modo. Hai centrato l'obiettivo. Sto cercando un modo. Senti, quando hai cominciato tu, Igor? Perché hai fatto per una vita ovviamente questo mestiere. Quanti anni avevi la prima volta che sei entrato in una palestra? Allora, io ho iniziato a praticare il judo quando avevo 5 anni, poi dopo pochi mesi ho seguito le orme di mia sorella Mara, quindi dopo poco mi sono avvicinato a questo bellissimo sport e è subentrata la passione, che credo che sia l'aspetto principale poi per continuare, perché vi ringrazio per darmi questa possibilità di dire che non bisogna per forza fare attività per diventare un campione, che è un bellissimo aspetto, però ci sono dietro dei valori importanti che si apprendono grazie allo sport. Invece Igor, poi ti saluto, riguardando il video di quella sequenza lì, immagino che tu la conosca a memoria, ha ragione Francesco, l'autore del racconto di oggi, quando dice che tu sembri, lui dice, una lama di ghiaccio, cioè è come se non ti passasse un'emozione negli occhi, che è una cosa che uno dice, arrivi, fai tutto il percorso, arrivi alle Olimpiadi, riesci ad arrivare in finale, che cosa passa nella testa di un atleta? È vero, io colgo l'occasione per ringraziare Francesco perché solo il fatto che era presente a vedere la mia finale, la mia gara e che ci tiene in maniera particolare allo sport, alla ginnastica artistica e al sottoscritto, lo ringrazio molto, quindi se ci sarà anche occasione di incontrarci. Ci sarà, la troveremo. Ok, sarà un piacere. Beh, come ha detto lui, una lama di ghiaccio perché in quei momenti lo stato emotivo, le emozioni, le pressioni, le tensioni, le responsabilità sono tantissime, altissime e bisogna però essere freddi e pensare solo a quello che tra virgolette all'obiettivo. Bisogna fare in allenamento e a centrare l'obiettivo, bravo. Chiaro, e poi ti saluto, è vero che tua mamma tiene tutti gli articoli tuoi e le cose? Sì, mia mamma che la saluto, che probabilmente ci starà ascoltando, ciao mamma, sì, lei mi ha sempre seguito come mio papà Carlo e mia sorella in tutte le gare in tutto il mondo, quindi ha tutto da quando ho iniziato a 6 anni fino ancora tuttora. Igor Cassina, medaglia d'oro ad Atene e soprattutto inventore di un movimento con il suo nome, grazie ancora Igor, buona giornata. Grazie a tutti voi, un abbraccio. Ciao, presto, ciao. Grazie mille. Grazie ancora a lui, grazie a Francesco che ci ha dato la possibilità di parlare ancora di Igor Cassina. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Ma di nuovo, grazie a Francesco. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Antonio, vengo da Masone Vicentino, un paesino in provincia di Vicenza. La storia di domani è la mia e parla della mia Parigi-Roubaix. Questa è la mia storia e io sono qui.